Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM, bentornati e bentornate in questa nuova puntata di Minerva di oggi venerdì 5 marzo, quindi ultima puntata di questa prima settimana di marzo. E partiamo puntuali e staremo come sempre una mezz'oretta insieme, quindi da mezzogiorno e mezza fino alle 13 appunto, per mezz'ora di diretta insieme in cui come sempre chiacchiereremo un po', ascolteremo della buona musica e ovviamente parleremo anche oggi di un nuovo approfondimento culturale che tra poco vi svelerò. Nel mentre mi raccomando, segnatevi voi, ma il numero è il nostro, quindi segnatevi il nostro numero di telefono che è 333-180-9494, potete mandarci un classico sms oppure un messaggino su WhatsApp o anche su Telegram. Andate anche a seguirci sui canali social, sia Facebook, Instagram, il canale YouTube e anche Twitter, siamo anche lì, ci trovate sempre come Radio Città Fujiko e insomma se vi siete persi qualche cosa delle nostre dirette, qualche intervista, qualche approfondimento, potrete trovarlo sia lì appunto sui nostri canali social che sul sito www.radiocittafujiko.it. E siamo arrivati al momento delle anticipazioni di questa puntata. Oggi torno a parlare di fumetti, di vignette, che sapete che è una delle mie passioni e quindi quando ne parlo sono sempre contenta, e nello specifico in questo caso si parla anche di donne e di femminismo, quindi sono ancora più emozionata. Ho avuto infatti il piacere di intervistare Stefania Spanò, che meglio conoscerete come Anarchicca, che è il suo nome d'arte. Stefania Anarchicca Spanò, come si definisce lei, femminista ancor prima che vignettista, ha voluto raccogliere in circa un'ottantina di tavole disegnate negli ultimi anni, alcune tra l'altro anche inedite, le ha volute raccogliere tutto nel suo primo lavoro Smettetela di farci la festa, che è uscito in tutte le librerie italiane per la collana Tracce delle case editrice People, con la prefazione della giornalista e blogger femminista Giulia Siviero. In questo libro, in questa raccolta di vignette, si parla di stereotipi di genere, si parla di femminicidio, in questo 2021 in cui purtroppo ancora, diciamo, il sangue delle donne assassinate per mano di uomini continua ad allargarsi e sembra non avere una fine. Quindi decisamente un argomento molto importante di cui purtroppo si deve continuare a parlare, e sicuramente Stefania Anarchicca Spanò lo fa in modo molto diretto e immediato, in una modalità per, come dire, cercare di andare avanti oltre gli stereotipi di genere, ma continuare comunque a parlare di femminicidio. E ci ascolteremo appunto l'intervista realizzata proprio all'autrice, ma tra poco, perché prima è il momento di ascoltarci invece un po' di musica, e siccome che si parla di donne, di corpi delle donne, ho pensato di farvi ascoltare questa canzone. Il suo titolo è Questo corpo ed è un singolo del gruppo musicale italiano La rappresentante di lista, che tra l'altro vediamo anche in questi giorni calcare il palco di Sanremo. Questo corpo è un brano contenuto all'interno del è il primo estratto contenuto all'interno del terzo album in studio Go Go Diva, uscito nel novembre del 2018, quindi ormai qualche anno fa, ma sicuramente ancora una canzone attualissima. Il singolo è stato scritto dai due, come dire, principali componenti del gruppo, che sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiarancina, E questa canzone, proprio come vediamo già dal titolo, è incentrato sul tema del corpo femminile e sulla forza che questo corpo può arrivare ad avere, perché nonostante appunto nel brano siano elencate tutte le debolezze anche fisiche che il corpo di una donna, ma non solo, può arrivare a raggiungere, quindi le gambe sole, le braccia che non mantengono, la fame, la sete, insomma tutto ciò che cita, che viene citato all'interno di questa canzone, nonostante ciò il corpo di una donna continua a resistere dopo tutte le cadute. Mi sembra veramente un messaggio molto bello, che tra l'altro coincide anche in parte con quello di Anarchica. E quindi ci andiamo a sentire questo corpo di la rappresentante di lista e poi torniamo in diretta. A me non piace niente, non mi piace nessuno. Queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono. Sei andato via, non ti sei perso niente. Questa bocca a volte non mi crede, vuole la fame e la sete. Queste mani mi consolano. E dentro il petto questo cuore non si muove bene, non pulsa il sangue e le vene. E il mio sesso quando si muove si trasforma tra le labbra una terribile lingua che canta. Dalla mia testa parte, dalla mia testa ritorna una canzone che sommerge i miei occhi. E mentre cadono le lacrime tremo, tutto mi gonfia la pancia e gonfia anche il mio seno. Dalla mia testa parte, dalla mia testa ritorna una canzone che fa esplodere. Questo corpo che è stato una festa, pieno di falsi amori, pieno di peli. Verrò con tutto il mio cuore a dirti cosa credi. Questo corpo che mi vuole bene, anche se cade non succede niente. È una promessa che faccio a me stessa, io mi riprendo quello che mi hai portato via. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna canzone che sommerge i miei occhi. E mentre cadono le lacrime tremo, tutto mi gonfia la pancia e gonfia anche il mio seno. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che fa esplodere i denti. E mentre rido dimentico di aver pianto, e la mia lingua si muove da sola e canto. Questo era questo corpo della rappresentante di Rista, il loro primo estratto dal terzo album in studio Go Go Diva, che ci riportano in diretta su Radio Città Fujiko. E torniamo appunto in diretta, come vi anticipavo prima, per parlare del primo lavoro editoriale, ufficiale, diciamo così, di Stefania Spanò in arte anarchica. È infatti uscita da qualche giorno in tutte le librerie, Smettetela di farci la festa, per la collana Tracce della casa editrice People, questo nuovo libro a fumetti, a vignette, appunto di Stefania anarchica Spanò. All'interno di questo libro sono contenute circa un'ottantina di tavole disegnate negli ultimi anni, anche alcune inedite che quindi non avete neanche mai sfogliato tra le pagine dell'Espresso, uno dei principali giornali con cui appunto anarchica collabora. Questo è un libro che parla di stereotipi di genere, parla di femminicidio e lo fa in modo molto diretto, molto immediato, anche cercando di andare oltre gli stereotipi di genere, ma come dicevo prima, comunque con fermezza, continuando a parlare di ciò che fa male alle donne. Ma direi che non mi perdo troppo in chiacchiere, anzi forse vi volevo giusto leggere proprio una dichiarazione che ha fatto lei, perché questo volume sarà presentato l'8 marzo durante un evento maratone organizzato dal comune di Latina, quindi insomma non proprio qua vicino a noi, però immagino che sarà in streaming e quindi lo potremo vedere anche noi. E lei stessa dice: è dedicato ai miei nipoti e alle mie nonne, perché è per i piccoli, i giovani, che sono sicura riusciranno a realizzare la parità di genere, un cambiamento sociale che aiuterebbe appunto tutti e tutte a evolversi in un modo migliore, ma è appunto dedicato anche alla sua nonna, che prima di morire le ha fatto promettere che sarebbe stata felice. Da quel giorno la sua vita è cambiata drasticamente, ha deciso in qualche modo di essere felice, di esprimersi tramite le sue vignette, e lo fa proprio anche nel suo ultimo, anzi nel suo primo libro, Smettetela di farci la festa. Adesso ci andiamo ad ascoltare la sua intervista e poi torniamo ancora in diretta qui su Radio Città Fujiko. Buongiorno a Stefania Spanò in arte anarchica, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, Smettetela di farci la festa, questo è il titolo del tuo primo lavoro editoriale. Innanzitutto, com'è stato l'approccio a questa opera prima? Allora, è stato un approccio emozionante e anche necessario. Avevo voglia di riordinare le idee, mettere un punto a tutto quello che in questi anni era stato il mio impegno, e quindi riorganizzare, mettere in ordine proprio tutto il mio lavoro fino a questo momento. Questo libro è infatti un insieme delle vignette pubblicate nel corso degli anni, con anche qualche opera che appunto non era stata ancora pubblicata. Come hai raccolto le tue vignette? Con un ordine cronologico sparso, c'è stato un lavoro dietro? Sì, inizialmente l'idea era quella di andare a recuperare in ordine cronologico, anche perché il mio approccio molto spesso è legato alla quotidianità, quindi anche se vuoi alla cronaca. In realtà mi sono resa conto, appunto riordinando, che non era necessario, anzi sarebbe stato molto più costruttivo mettere insieme tutto in maniera molto random, diciamo così, perché in realtà, ahimè, vignette di 5-6 anni fa sono assolutamente da considerarsi attuali, quindi ancora oggi gli argomenti sono gli stessi, il modo di raccontarli è lo stesso, e quindi nel libro le ho riunite così come venivano fuori, saltavano fuori. Quali sono le storie che racconti appunto in queste vignette? Hai parlato di attualità, di cronaca? Sì, allora diciamo che il mio impegno in questi anni è volto soprattutto a svelare il linguaggio dei media, perché il linguaggio dei media, secondo me, sono lo specchio della cultura in cui siamo immersi. Quindi il modo che i media hanno di raccontare, in particolar modo le donne, la violenza sulle donne, è riflesso di quella stessa cultura che combattiamo tutti i giorni e che, insomma, vorremmo uscire, vorremmo superare. Il tuo lavoro verrà presentato l'8

tutte le spine del mondo, i chiodi piantati nel cuore. Questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, li porto via amore. Per tutte le spine del mondo, i chiodi piantati nel cuore. Questo è il mio sangue, questo è il mio corpo, li porto via amore. Confessa che sei il demonio nella testa, che mi trascina sempre giù. Torniamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Minerva con la voce e la regia di Rachele Copparoni. E invece il brano che abbiamo appena sentito era Gesù Cristo sono io, brano di Levante, cantautrice direi mezza siciliana, mezza ormai torinese. Comunque questo brano era il terzo estratto dal suo album Nel caos di stanze stupefacenti. È un brano, un pezzo sicuramente molto incalzante e tagliente, direi anche profondo, perché appunto attraverso queste parole, questo testo, la cantautrice denuncia la violenza sulle donne, non solo quella fisica ma anche quella psicologica, che diciamo purtroppo a volte viene un po' messa in secondo piano. Quindi questo brano, da questo titolo che sembra inizialmente un po' così autoreferenziale, Gesù Cristo sono io, in realtà attraverso appunto questa grande e ricercata metafora biblica parla di un fenomeno di attualità profonda che si collega anche a appunto al libro a fumetti a vignette di Stefania Anarchica Spanò, Smettetela di farci la festa. E cambiamo pagina, voltiamo pagina per qualche minuto di diretta ancora insieme, che ci separa dai saluti finali, ovviamente dedicato alla nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi che si svolgeranno appunto oggi venerdì 5 marzo qui nella nostra Bologna. Devo dire che oggi, siccome che era un po' scarsa, un po' scarna questa agenda degli appuntamenti, volevo comunque darvi qualche idea su come passare questo venerdì pomeriggio, venerdì sera ormai casalingo, e quindi sono andata a pescare anche appuntamenti che non hanno proprio a che fare strettamente con la città di Bologna, ma tanto ormai è tutto online, quindi ecco, sono andata anche un po' in giro per l'Italia. Il primo appuntamento si chiede, la domanda da cui parte è: quanto pesano il linguaggio e gli stereotipi nell'alimentare una cultura sessista e patriarcale anche quando si tratta di aiutare gli altri? È proprio questa appunto la domanda da cui parte l'incontro, a cui parteciperanno Takawa Ben Mohamed e Fendaus Arfi, per provare a dare appunto il loro punto di vista su questo argomento attraverso la loro arte, in una performance che commenteranno live su Facebook insieme a Vera Gheno, sociolinguista, femminista ed esperta di comunicazione digitale. L'evento è parte dell'edizione speciale in streaming del We World Festival, l'annuale appuntamento appunto che punta i riflettori sui diritti delle donne, e sarà alle 16:30 su tutte le pagine e canali social di We World Festival. Sempre in occasione della giornata internazionale della donna e nell'ambito delle celebrazioni per i 110 anni della CGIL di Treviso, vi dicevo che ero andata un po' in giro per l'Italia, ci sarà l'evento online Donne per il Lavoro. Gli interventi saranno di Sara Pasqualin, sempre della CGIL di Treviso, e Elena Di Gregorio. Ci sarà anche la presentazione del libro La Vasca del Führer, edito da Einaudi Editore, di Serena Dandini. Per chi non la conoscesse, anche se dubito, Serena Dandini ovviamente cantante, scrittrice, autrice e conduttrice, e dialogherà con Valentina Calzavera, che è una giornalista. Ultimo appuntamento per questa agenda di oggi venerdì 5 marzo alle ore 21 in diretta Facebook dall'Associazione Culturale 36esimo Fotogramma. In collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura si presenta il libro fotografico Continente Sicilia di Edizioni Postcard. Ci sarà l'autore Franco Zecchin in collegamento con l'editore Claudio Corrivetti. Coordinerà il tutto Federico Montaldo. E così si conclude anche questa agenda degli appuntamenti dell'ultima giornata della prima settimana di marzo. Già è finita, mi sembra di aver iniziato ieri che fosse già ieri lunedì, invece siamo già arrivati a venerdì. Quindi io vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana e un buon pranzo come sempre, perché ormai è arrivata decisamente l'ora, c'è anche un certo languorino qua in studio, e quindi che dirvi, ancora una buona giornata. Mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati su Radio Città Fujiko, perché tra poco, dopo la pubblicità, ci saranno tutti i GR con le notizie dall'Italia e dall'estero. Quindi buon ascolto, buona giornata, buon pranzo, buon tutto, buon fine settimana. Forse ve l'avevo già detto, comunque ci sentiamo lunedì. Un saluto da Rachele, ciao! Il ritorno di Minerva con Rachele Copparoni, una cultura che è sempre titolare e mai di riserva.